Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e se le borse stanno in chiusura di settimana recuperando un punto e mezzo percentuale Milano, meglio di altre, visto che Parigi fa più 0,7, Francoforte più 0,2, Londra meno 0,1 e l'America mezzo punto percentuale di rialzo. Dicevo, se le borse stanno recuperando, le brutte notizie arrivano dal fronte economico in senso stretto, ossia il PIL. Oggi è uscita una raffica di PIL trimestrali, quindi come si è mossa l'economia europea da gennaio, febbraio e marzo. Ieri già si era capito che la situazione non buttava bene con il primo dato, quello spagnolo. Oggi è arrivata, sono arrivati i PIL dei principali paesi dell'area euro e come vi raccontavano i nostri GR, beh, insomma, peggio di qualunque attesa, nel senso che complessivamente l'Europa ha visto un calo del 4,6% l'area euro come PIL rispetto al trimestre precedente, ma questa non è, lo dico prima di iniziare poi l'approfondimento, non è la cifra più interessante. La cifra più interessante è il raffronto tra i primi tre mesi del 2009 e gli ultimi tre mesi del 2008, perché tutti sappiamo, immaginavamo che il confronto rispetto a un anno fa sarebbe stato pesante. L'importante è quello che si chiama dato congiunturale, cioè il trimestre sul trimestre. In questo caso l'importante era vedere con che velocità o con che frenata, per meglio dire, si era entrati nel 2009. Ebbene, la frenata anche trimestre su trimestre è stata più pesante delle attese. A livello complessivo l'area euro ha fatto un meno 2,5% e poi c'è la Germania che ha il calo più forte da 40 anni, nel senso che per da 40 anni che la Germania non faceva 4 trimestri di fila, ossia un anno consecutivo di segno meno. E il calo di questo ultimo trimestre, cioè il meno 3,8% rispetto agli ultimi tre mesi del 2008, è il calo peggiore a livello di variazione trimestre su trimestre dal 1970. Poi è entrata in recessione anche la Francia, tecnicamente un ennesimo trimestre di calo, meno 1,2%. La Francia è il paese che per ora se la passa meno peggio dei paesi europei. L'Olanda meno 4,5%, addirittura su base annua è la peggiore contrazione dalla seconda guerra mondiale anche per l'Olanda. E poi l'Italia, l'Italia ha il calo più forte, meno 6% quasi anno su anno, una sberla che non si vedeva dal 1980, quando però inizia la serie statistica, quindi non sappiamo prima, non è confrontabile il dato con prima, e comunque era 29 anni che l'economia non frenava in questo modo. Questo anno su anno, se poi si va a vedere il calo rispetto al trimestre precedente, meno 2,4% non è così pesante, ci mancherebbe, però peggio fa per esempio la Germania. Ecco perché partiremo subito dalla Germania per poi passare all'Italia e agli altri paesi europei. Certo, insomma, l'Italia si ritrova con un meno 6% e con un calo del PIL già acquisito, che vuol dire che se nei prossimi 9 mesi non vi fosse alcuna variazione, cioè il PIL facesse zero, né negativo né positivo, già saremmo un meno 4,6%, visto che il governo stima un meno 4,2, o nei prossimi trimestri arriva al segno più, oppure si va a chiudere peggio dalle stime del governo e si va a chiudere vicini al 5% come calo del PIL, che a quel punto sarebbe, mi dispiace dirlo, un crollo del PIL, un meno 5%. Chiaro è, e poi passiamo alle notizie in breve, che dire a mal comune mezzo gaudio serve fino a un certo punto, ma la situazione è complessivamente pesante in tutta Europa. Ieri, dicevo, la Spagna aveva registrato il peggior calo nella sua economia degli ultimi 40 anni. Quindi piove, c'è sciopero dei mezzi e i PIL vanno male. Cerchiamo di tirare sul morale con il resto della puntata. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Beh, proviamo a tirare su il morale dando qualche andamento di borsa. Per esempio Intesa San Paolo va molto bene, più 6%, Parmalat più 7,5%, A2A più 5,5%, Saipem più 3,5%, ST Microelectronics più 3%, Prismian più 2,80%, Lottomatica più 2,5%, Tenaris più 1,8%, Terna più 1,6%, Alleanza più 1,4%, Eni più 1,3%. Chi va male oggi? Mondadori meno 2,90%, Fiat meno 2,30%, Unipol meno 2,30, Mediaset meno 1,80, Bulgari meno 1,7, la Popolare di Milano perde l'1,6, Italcementi l'1% come Autogrill e il Banco Popolare. Euro a quota 1,3590, giustamente alcuni di voi già ci chiedono ma non ci sono reazioni di borsa. No, ma a dire il vero le borse, non solo Milano, hanno relativamente ignorato questi dati, un po' perché cali pesanti erano attesi. È vero che i cali sono peggiori delle attese, ma sono sempre nell'ordine dei 3-4 punti percentuali. È un po' perché in questo momento la borsa ragiona su altre logiche, non sulle logiche macroeconomiche. Infine, perché questi dati sono relativi ai primi tre mesi dell'anno e ci si attende che soprattutto alcuni titoli bancari, ma non solo, possono migliorare quanto a bilancio nei prossimi mesi. Le trimestrali che sono uscite, anche quelle delle banche, sono state tutto sommato soddisfacenti, cioè gli utili spesso dimezzati, ma prospettive migliori per il 2009. Un conto è l'economia nel suo complesso, un conto infatti sono i singoli titoli in borsa. Ancora, parleremo più avanti della California, perché voglio dire, anche la California non se la passa bene. È arrivata a prevedere la vendita del carcere di San Quintino, addirittura un deputato ha proposto di legalizzare la marijuana per poterci guadagnare come tassazione, il tutto una settimana dalle elezioni. C'è chi dice una mossa politica per cercare di ottenere il referendum sul un inasprimento fiscale. Fatto sta che la California nell'ultimo mandato di Schwarzenegger ha un problema di bilancio non indifferente, e siccome qua si ricorre alla vendita dei gioielli un po' come la vendita del Colosseo di Totò, ne parleremo nella seconda ora del programma. Parleremo anche del Salone del Libro di Torino, così magari respiriamo un po' oggi, del giro d'affari e degli elementi chiaramente di carattere economico che stanno emergendo dal Salone del Libro, dove Radio 24, ve lo ricordo, è radio ufficiale. Una buona notizia in qualche modo arriva dall'America sulla produzione industriale, che ha segnato un meno 0,5%, però è leggermente migliore delle attese. Che però la crisi non stia risparmiando in America nessun settore, lo dimostra il dato sui videogiochi, meno 17%, quindi secondo mese consecutivo di calo a due cifre nelle vendite di videogiochi. Poi arriva il PIL russo, perché non è che ci sono solo i PIL europei, meno 9,5%, con un calo che raggiunge il 23% rispetto al trimestre precedente, per cui il meno 9,5% è anno su anno, ma rispetto al trimestre precedente il crollo dell'economia russa è fortissimo, meno 23%. Sempre in tema di Russia, però questa volta parliamo di energia. Il presidente di Gazprom, Alexei Miller, e il numero uno di Eni, Paolo Scaroni, hanno firmato oggi a Sochi, alla presenza del premier russo Vladimir Putin e del presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, una nuova intesa per realizzare il gasdotto South Stream, destinato a portare in Italia il gas dei giacimenti russi. E sempre per quello che riguarda South Stream, Gazprom ha firmato oggi, sempre a Sochi sul Mar Nero, un accordo anche con le società energetiche di Bulgaria, Grecia e Serbia, perché lì deve passare poi il gasdotto che collegherà la Russia, lo ricordo, all'Europa, senza passare per l'Ucraina, che ha molti problemi nei suoi rapporti con la Russia, nei pagamenti, nella chiusura dei rubinetti ha creato in questi anni. La vicenda Fiat, concorda Sergio Marchion sull'opportunità di un incontro con il governo italiano e con il sindacato, come chiesto dai sindacati della FIOM, FIM, WILM e FISMIC, che invocano un tavolo di confronto col governo e l'azienda. Domani, infatti, tra l'altro a Torino, gli operai di tutti gli stabilimenti italiani della Fiat saranno a una manifestazione nazionale indetta da FIM, FIOM e WILM. Sfideranno dietro lo striscione da nord a sud: la Fiat cresce solo con noi, per chiedere garanzie sul futuro delle loro fabbriche. Il corteo partirà dalla porta 5 della carrozzeria di Mirafiori, e poi, che è un luogo simbolico nella storia della Fiat, e poi raggiungerà il Lingotto. Il petrolio, visto che parlavamo di energia, apre in calo. Forse il petrolio un po' risente dei dati sull'economia, e per nostro vantaggio almeno quello, 57,88 dollari al barile. Un attimo, vedo molti messaggi: perché non ammettete che la situazione è più grave di quello che non raccontano i politici? Adesso ci arriviamo. Ancora rapidamente andiamo a chiudere con le notizie in breve, perché se dall'America arriva una notizia positiva sulla produzione industriale, ancora, lo dico a chi scrive, non abbiamo notizie di quello che è il PIL americano. Per quello che riguarda la California, sì, confermo invece che tra le varie ipotesi, oltre che vendere lo stadio, c'è anche la vendita del carcere, ma andremo a vedere che poi spesso sono buttate di carattere politico. Dicevo, l'ultima notizia in breve: Strauss-Kahn, Dominique Strauss-Kahn, che è il direttore del Fondo Monetario Internazionale, ha detto oggi, parlando a Vienna, il punto di svolta per l'economia mondiale potrebbe essere registrato a ottobre, novembre o dicembre. Vabbè, a sto punto buttiamoci dentro anche gennaio, andiamo direttamente al 2010, tanto qua sembra di capire che la ripresa da metà del 2009 ce la siamo già giocata. E allora, primo tema, tema che riguarda chiaramente i dati diffusi oggi sull'area economica europea e tutta l'andamento delle economie principali, visto che la Spagna è uscita ieri. Non è solo l'Italia, lo dico a chi scrive, il malato in questo momento, più malato stando alle indicazioni, sembra essere la Germania. Certo, se si guardano le percentuali, noi facciamo un meno 6% quasi anno su anno, la Germania se la cava un po' meglio, perché se la cava un po' meglio sul trimestre, ma se la cava peggio sull'anno, perché fa un meno 6,9. Fa peggio di noi la Germania anche trimestre su trimestre, oltre che anno su anno, meno 3,8%, e l'Italia da questo punto di vista fa un meno 2,4%. Il Presidente del Consiglio ha detto i dati erano attesi, ma vediamo un miglioramento, la crisi esiste, però i contatti con le aziende ci dicono che c'è un miglioramento della situazione. La crisi esiste, abbiamo visto i risultati anche che sono stati comunicati questa mattina, erano quelli che si sapevamo, stimavamo il 4,4, 4,5, abbiamo una previsione di 4,6 annuale, ma tutti i contatti che abbiamo con le aziende, con i vari imprenditori, ci dicono che ci sono molti segnali che inducono alla fiducia, cioè c'è un miglioramento della situazione che ci è riconosciuto da imprese piccole, medie e grandi. Questo non significa che non dobbiamo essere sempre attenti e preoccupati, significa ancora una volta che questa crisi ha come fattore massimo il fattore psicologico. Ed è compito quindi del Presidente del Consiglio e del Governo di diffondere non pessimismo, ma il contrario del pessimismo, e cioè fiducia e ottimismo. Allora, così il Presidente del Consiglio Berlusconi nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. Replica Pierluigi Bersani, responsabile economico del Partito Democratico. La stima del PIL diffusa oggi conferma che la crisi continua ad aggravarsi ed è ormai evidente il rischio di un avvitamento in un circolo vizioso di caduta del PIL, aumento della disoccupazione e del debito pubblico. E poi continua Bersani, non si può non vedere che siamo gli unici in Europa ad avere 4 trimestri consecutivi di contrazione del PIL. A dire il vero, no, nel senso che la Germania ha avuto 4 contrazioni consecutive del PIL, ed ecco perché si dice che non capitava dal 1950, 40 anni, forse un po' di meno, 59. La buona notizia arriva dall'inflazione, è stabile ad aprile, più 0,2% all'1,2% su base annua, quindi almeno in questi periodi di magra i prezzi non corrono. Vorrei anche vedere il contrario, vedo alcuni sms che dicono ma il governo non deve essere né ottimista né pessimista, deve essere realista. Sono d'accordo, se vogliamo dire, il pessimismo non fa bene, l'ottimismo senza fondamento non fa bene, il realismo, diciamo, è la misura economica più seria e concreta, mettiamola così. Comunque partiamo dalla Germania, non per allontanare i nostri mali, ma perché l'ho definita il malato d'Europa. La Germania torna a un periodo, insomma, la riporta indietro di 40 anni, noi torniamo a un periodo come dato che ci riporta al 1992, anche se dal 1980 che non andava così male il PIL, ma diciamo, il paragone più forte con il 92, l'arresto di Mario Chiesa, scoppia Mani Pulite, la strage di Capaci, Giuliano Amato che diventa Presidente del Consiglio, la svalutazione della lira che viene cacciata dallo SME grazie anche a Soros, la manovra da 100.000 miliardi di lire di allora, cioè 50 miliardi di euro di adesso, però nel 92 immaginate cosa sarebbe adesso una manovra del genere. Anche perché il deficit allora viaggiava al 9,5%, adesso come adesso siamo intorno al 3,7-3,8%. E chissà cosa succedeva in Germania 40 anni fa, non chiedo questo a Beda Romano, però insomma, la Germania è tornata a un livello da inizio anni 70. Beda Romano, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte, buonasera, dalla Germania, buonasera. Buonasera. Allora, tra l'altro noto che in Germania l'ex presidente della Bundesbank, Tittmeier, ha lanciato sui giornali una campagna per il rigore fiscale, con foto di neonati di diversi periodi che indossano bavagli con scritto l'ammontare del debito che grava sulle loro spalle, no? Per cui nel 1950 erano 188 euro, nel 70 1053 euro, nel 2010 22.000 euro. Comunque, quanto peggio delle attese è andato questo PIL tedesco? Beh, è andato peggio delle attese, perché gli economisti si aspettavano un calo circa il 3% ed è calato del 3,8% su base trimestrale, quindi è calato molto. Il primo trimestre si è rivelato peggiore dell'ultimo trimestre dell'anno scorso. Questo si sapeva, le autorità federali lo avevano menzionato nelle ultime settimane. Ed è evidente che la Germania sta soffrendo del fortissimo rallentamento economico mondiale. Abbiamo visto una forte ripresa dell'economia tedesca tra il 2005 e il 2007-2008, grazie a delle esportazioni, grazie alla domanda internazionale proveniente dai paesi emergenti. Nel momento in cui c'è stato un arresto del commercio mondiale alla fine dell'anno scorso, le prime a soffrire sono state proprio le aziende tedesche, molto esposte al commercio internazionale. Il risultato è che la Germania a questo punto sta andando peggio di altri paesi, e in particolare peggio della Francia, che è un paese. Sì, molto peggio della Francia, hai ragione. Che è un paese in realtà meno esposto al commercio internazionale, con un'economia domestica più forte e più radicata, con consumi più dinamici, con il risultato che la Francia ha una contrazione della propria attività economica del primo trimestre di poco più dell'1% e la Germania di quasi il 4%. Sì, la Francia, magari sarà anche spunto di un'altra puntata di Focus Economia, è il caso tra virgolette virtuoso, per carità. È in recessione tecnica anche lei da oggi, però è una recessione tecnica su cui noi metteremo la firma, perché un meno 1,2% insomma, averlo qui, meno 3,2 rispetto all'anno prima, ma la Germania ha fatto meno 7 quasi rispetto all'anno prima e l'Italia fa meno 6 rispetto all'anno prima. Quindi la Francia, diciamo, ha una recessione economica che è la metà di quella tedesca, anche più della metà, meno della metà, e di quella italiana. Ci scrivono ascoltatori: la crisi è finita, da novembre a Pasqua sulla tangenziale di Mestre non facevo più la coda, ma da Pasqua in poi il traffico è tornato ai livelli di prima della crisi. Ci auguriamo che lei abbia ragione e che magari non sia chiuso il passante di Mestre, ma insomma, speriamo che lei abbia ragione. Beda Romano, le ricette politiche, perché a questo punto, come scrivono alcuni ascoltatori, se è vero che il sistema bancario in questi mesi, con un enorme sborso di denaro, è stato messo in sicurezza, per cui continueremo a vedere trimestrali pesanti, magari negative, ma non c'è più il rischio sistemico di che il mondo bancario non tenga, non regga, beh, a questo punto le iniziative della politica, immagino anche in Germania, si devono spostare all'economia reale, alle imprese, alle agevolazioni fiscali, ai dipendenti, alle famiglie per i consumi. Beh, il paese è in grave ambasce, l'establishment politico tedesco è in grave difficoltà, perché è il modello economico tedesco che in questo momento sta soffrendo, è un modello economico proiettato all'estero, proiettato verso le esportazioni. Abbiamo capito che in questo momento le esportazioni stanno andando malissimo, non può contare su consumi dinamici, i consumi sono deboli, al tempo stesso però c'è un forte aumento del deficit pubblico. Proprio ieri il governo ha annunciato nuove stime delle entrate fiscali e sono particolarmente drammatiche, perché da qui al 2012 il governo si aspetta un ammanco rispetto alle previsioni precedenti di poco più di 300 miliardi di euro. Il deficit rispetto al prodotto interno lordo sarà di circa il 4% quest'anno e sarà del 6% l'anno prossimo. Quindi 6% margini... senza manovra, però, diciamo. Senza manovra, sì. Assolutamente. Senza, cioè, manovra. Se non vi fosse una manovra finanziaria, il deficit tedesco schizzerebbe al 6%. Tra l'altro l'ammanco fiscale solo nel 2009 è stimato in 45 miliardi di euro, perché per via della recessione economica arriveranno 21 miliardi e mezzo in meno al fisco federale, cioè allo Stato, sì. 16 miliardi e mezzo in meno alle regioni, anche lì c'è la tassazione, diciamo, il federalismo fiscale c'è già in Germania, e 7 miliardi e mezzo ai comuni in meno, per cui 45 miliardi di entrate fiscali in meno, sono un paio di manovre finanziarie. Sì, sì, e quindi per rispondere alla domanda, insomma, è difficile per il governo agire sul fronte fiscale, non se lo può proprio permettere, non solo non fa parte della sua cultura, della cultura politica di gran parte dell'establishment, ma francamente temo che non se lo possa permettere. Ci sono previsioni che fanno pensare a un aumento del debito tedesco l'anno prossimo vicino all'80%, e sono previsioni della Bundesbank. Adesso il debito alla fine dell'anno scorso era intorno al 67%, quindi un forte aumento del debito. E quindi, per rispondere alla domanda, la politica economica tedesca è in gravi difficoltà e la speranza naturalmente è che riparta in un modo o nell'altro il commercio internazionale, e questo aiuti le esportazioni e quindi faccia ripartire l'economia, e con l'economia anche le entrate fiscali. Sì, mi sembra un grosso auspicio, ma senza nessuna misura concreta, nel senso che la Germania, come tu ricordavi, ha una situazione abbastanza simile a quella italiana, non sul debito, ma insomma tutta la nostra ripresa, quel poco che si è visto di ripresa economica degli ultimi anni, era guidato dall'export italiano. I consumi in Italia, vuoi per il passaggio dei euro, vuoi per tutto un insieme di motivi, i consumi sono sempre rimasti fermi. La Germania ha un modello simile, cioè tutta la forza del Made in Germany è quello che guida la crescita economica, anche una crescita economica forte in questi ultimi anni. I consumi però latitano. Ora, la Francia, beh, con questo concludo, poi passiamo all'Italia, sembrerebbe essere in questo momento il modello virtuoso, cioè il PIL lì cala, ma cala molto molto meno che da noi, che in Germania, perché tengono i consumi interni. Forse è il caso anche di rivalutare qualche politica sociale, di welfare. Il problema, la Francia ha avuto una politica a favore della famiglia estremamente generosa negli ultimi 30 anni, tanto che il numero di bambini per coppia è molto più elevato di quanto non lo sia in Germania e in Italia, è superiore a 2 rispetto a 1,3-1,4 in Germania. La politica fiscale ha permesso alle famiglie di avere dei figli e quindi sono aumentati i consumi. A questo si aggiunge, come dicevo prima, un'esposizione dell'economia francese verso l'estero assai minore. E quindi sente meno del ciclo. E quindi sente meno del ciclo e soprattutto di un ciclo di questo tipo, dove è una forte sincronizzazione al ribasso del commercio internazionale. Grazie a Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte. Siamo volutamente partiti dal caso tedesco perché oggettivamente è quello più non drammatico ma più pesante nei suoi dati. Politiche per la famiglia, sì, alcuni scrivono da noi le politiche per la famiglia c'è solo per le campagne elettorali, poi tutti si dimenticano della famiglia. Siamo d'accordo, qua in questi anni di politiche sulla famiglia vere, penso al coefficiente familiare per la tassazione, penso a sgravi fiscali per i figli, per i secondi e terzi figli, penso a tutto un insieme di detrazioni possibili per le mamme che lavorano, non si è mai visto nulla, solo grandi parole in campagna elettorale. Quindi, visto che ci siamo, immagino ripartiranno anche i Family Day e gli appelli alla famiglia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso del PIL italiano, poi nella seconda ora la scheda su tutti i dati usciti oggi e il caso California, anche per così sorridere un po', visto che lì si stanno inventando, ripeto, la vendita dello stadio e la vendita del carcere ai privati. Di molti messaggi che sono arrivati, come immaginabile, al 349-238-6666. Attenzione, le politiche per la famiglia, oltre al valore sociale e anche morale, se si vuole, sono politiche di solito anticicliche, cioè permettono di avere dei consumi che sono meno compressi, che tengono un po' di più, e soprattutto quello che questa crisi dimostra, ma la domanda la giro all'economista Franco Bruni, che insegna economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano, editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera. Quello che questi dati dimostrano, come raccontava anche Beda Romano, è che essere troppo legati all'export, ossia alla congiuntura mondiale, può far crescere molto, essere un po' cicale nei periodi di espansione, però poi si perde moltissimo, vedi il caso della Germania e dell'Italia, nei periodi di recessione economica. La Francia crescerà forse un po' di meno quando c'è una grande crescita dell'economia mondiale perché esporta meno, però tiene anche di più nei periodi di recessione, cioè il PIL francese cala di meno della metà rispetto a quello tedesco e quello italiano. Professore, intanto sei sorpreso da questi dati, ma soprattutto se la strada deve essere a questo punto le politiche per mantenere i consumi interni, la domanda interna. Proprio così, sì, mi sembra proprio che lei abbia detto la cosa giusta, cioè l'Europa e in particolare Germania e Italia hanno delle strutture produttive troppo orientate alle esportazioni e noi abbiamo molta enfasi anche politica sui settori esportativi e quando il cambio dell'euro si rivaluta un po' piangiamo più forte degli altri, mentre invece forse uno degli aggiustamenti necessari in questa globalizzazione e dopo questa crisi è proprio una riconversione produttiva verso i consumi interni, la spesa più accentuata in quel settore e quindi una emancipazione un pochino di più dal ciclo mondiale. Sì, l'unica obiezione è che non è che uno può imporre alle famiglie di consumare se non hanno i soldi, mentre è chiaro che quando tu lavori sui prodotti, sulle esportazioni, puoi anche competere sulla qualità, sull'innovazione, sul design, sulla rete commerciale, cioè hai altri elementi. Sì, ma non è una questione solo di domanda e non è una questione di breve periodo, è una questione che nel medio periodo le risorse vanno spostate, le nuove risorse vanno investite in settori diciamo che sono meno orientati all'export, per esempio una forte razionalizzazione e efficientazione della distribuzione commerciale, che in America è esageratamente sviluppata, e quindi loro finiscono ad avere una bilancia di pagamenti passiva e sono nella situazione contraria, devono spostare le risorse in un altro senso. Da noi è sottosviluppata, mentre abbiamo questi settori esportativi che hanno ragione naturalmente a prosperare, ma noi abbiamo una carenza opposta. Sui dati del PIL mi sembra che, nonostante visti così, siano impressionanti e leggermente peggiori delle aspettative, si riferiscono naturalmente a un periodo che è già terminato, tenuto conto delle medie previste per quest'anno non le correggono in peggio in modo molto significativo. A quei valori, diciamo che l'incertezza poi diciamo delle stime è abbastanza forte, potrebbero esserci revisioni e non si sa come va il resto dell'anno, quindi io non sono sorpreso in modo diciamo fortemente negativo. È una cosa, sappiamo che in questi ultimissimi tempi c'è stato qualche segno di piccola ripresa, l'importante è non esagerarne il significato. L'ultima domanda che ho per lei, professor Bruni, è la seguente. Due cose abbiamo sentito dire in questi mesi: che l'Italia e soprattutto l'Italia se la sarebbe passata meglio perché, essendo meno finanziarizzata, con banche, come disse il ministro Tremonti, che parlavano meno bene l'inglese, quindi meno esposta sui prodotti tossici, l'Italia è più manifatturiera e quindi avrebbe tenuto un po' di più rispetto al caso britannico e anche al caso spagnolo, dove la speculazione edilizia era fortissima. Dall'altro abbiamo sentito dire che l'Italia se la sarebbe passata meglio perché noi abbiamo dei risparmi privati, abbiamo un alto debito pubblico, ma degli altri risparmi privati. La nostra ricchezza patrimoniale tra mobili e immobili vale 8 volte il PIL italiano, mentre in America è 5 volte e in media europea è 3 volte. Questi possono essere dei fattori così che possono ridurre, smussare la crisi, perché a vedere i dati non sembra. Ma la ricchezza privata serve il risparmio accumulato in passato serve soprattutto come ammortizzatore, ma non è che serva a ridurre l'andamento negativo della produzione e del reddito, cioè serve a far soffrire leggermente meno, soprattutto se è una ricchezza non troppo concentrata, la gente che vive una crisi del reddito. La ricchezza serve diciamo da cuscino ai cali del reddito. Quanto alle banche, io quello penso che esageriamo un po' a fare i complimenti a una struttura bancaria tecnicamente un po' arretrata. È vero, ci ha portato verso situazioni meno rischiose, ma è anche meno pronta di altre strutture finanziarie a cogliere occasioni per grandi operazioni finanziarie che sono indispensabili se si vuole ristrutturare l'economia in vista della competizione mondiale. La domanda che però sta arrivando è: che cosa vuol dire far ripartire i consumi? Perché cioè, alcuni invocano una specie di autarchia, no? Cioè consumiamo italiano, compriamo italiano e lasciamo i soldi diciamo, in Italia, che è una cosa che per esempio i francesi su questo sono abbastanza nazionalisti, ma è con un principio più autarchico, come si sarebbe detto una volta, che può ripartire la domanda interna? Provi a pensare di essere in grado, come qualcuno di noi aveva consigliato fino dall'inizio della crisi, fine 2007, di abbassare in modo significativo le imposte sul reddito, come del resto anche il governo in carica ideologicamente vorrebbe fare. Ecco che i consumi crescono, crescono anche naturalmente un po' i consumi di beni importati, ma c'è una grossa alimentazione della spesa interna. Di questo che avevamo bisogno, adesso è troppo tardi, adesso abbiamo già accumulato un disavanzo, un debito irrimediabile, ma se avessero fatto questo, che era la prima cosa da fare quando la crisi ha dato i primi segni forti, oggi saremmo in condizioni probabilmente meglio. Se l'avessimo fatto poi tutti in Europa in modo concordato sarebbe stato l'ideale. Ma lei è così convinto che abbassare le tasse, per carità, ben venga un calo delle tasse, ma avrebbe portato a un aumento dei consumi? Perché se la gente ha aspettative negative, i soldi li tiene in banca o li tiene sotto il materasso. Se lo facessero adesso sì, ma se l'avessero fatto ai primi segni della crisi, quando ancora le aspettative non erano così negative, dopo l'estate diciamo del 2007, quando molti di noi hanno detto di farlo e ci è stato risposto che non era possibile, soprattutto che non era possibile perché non c'era concordia in Europa, E allora se lo faceva uno andava male, perché il debito pubblico di quel paese avrebbe sofferto sul mercato internazionale. Ecco, quello era il momento di farlo e purtroppo non hanno fatto, e adesso ci sono in sede europea dei tentativi per cominciare a parlare seriamente di coordinamento fiscale. Purtroppo non è un discorso facile, ma ci sono a Bruxelles discorsi seri. Speriamo che per la prossima crisi siamo pronti ad affrontarla tutti insieme. Con l'arma classica: quando c'è una crisi di questo tipo, di domanda e di aspettative, si abbassano le imposte e un pochino la crisi poi va meglio, insomma. Sì, io prima di parlare della prossima crisi, professore, sennò qua il gufo si prende Viagra oggi, ma vorrei concludere. Scuso, vorrei arrivare alla fine di questa. Ecco, andiamo un po' la prossima crisi, speriamo di esserci, nel senso, speriamo anche no, così vuol dire che arriva fra 50-60 anni. L'ultima domanda, però, se lei dice abbassare le tasse, vabbè, ci sono esperimenti invece che legano i consumi, o meglio, un'agevolazione fiscale ai consumi effettivi. Penso al caso, per ora molto limitato purtroppo, della Luxottica, che invece che dare aumenti che poi restano magari appunto sotto il materasso, ha legato a un pacchetto di consumi, adesso l'abbiamo già raccontato, per cui delle convenzioni per cui il dipendente va in questi posti e ha degli sconti molto forti, per cui di fatto è un'agevolazione come se fosse in busta paga, aumenta il potere d'acquisto. Andare, non sarebbe un meccanismo più virtuoso quello? Perché io non sono così. Chi sceglie i posti dove si ha lo sconto fiscale? Diventa un fatto di discrezione politica, cioè perché chi sceglie le spese di consumo detraibili, diciamo così? Forse si potrebbe immaginare qualche sistema innovativo di detrazione di certi consumi dall'imposta sul reddito, insomma. In realtà non ci sono anche in letteratura dei sistemi molto, molto limiti. I sistemi limiti che ci sono in letteratura sono per il contrario, sono per la tassazione dei consumi, in sostanza il passaggio dalle dirette alle indirette, ma in questo caso bisogna fare il contrario. Ma almeno possiamo riconoscere che il ministro Tremonti in questo modo ha avuto anche degli scontri dentro il governo per come sta tenendo il portafoglio, ma almeno, diciamo, si è premunito contro un'eventuale difficoltà a reperire capitali nelle prossime emissioni obbligazionarie. Cioè, l'Italia deve rifinanziare il suo debito mensilmente. Cioè, Tremonti ha paura che possa essere un problema a trovare investitori per il debito italiano, visto che anche la Germania ne ha bisogno, la Gran Bretagna ne ha bisogno, e via discorrendo. Ma sai, il rapporto debito-PIL è cresciuto moltissimo. Tremonti ha preferito farlo crescere così, diciamo, perché è sceso il PIL. Chissà, forse ci sarebbe stato anche un modo di lasciarlo lo stesso abbastanza alto, più o meno il livello che è, però con un PIL un pochino più alto. Quindi siccome quello che conta per i mercati finanziari è il rapporto tra debito e PIL, noi abbiamo questo rapporto con un PIL molto basso. Se avessimo un PIL un po' più alto, potremmo anche avere il debito un pochino più alto in questa fase. Certo. È stata una scelta fatta in modo cosciente, prendendosene la responsabilità politica. Tanto di cappello non avrei voluto essere io a dover decidere, prendersi la decisione che è stata presa. È stata presa con coerenza e adesso ci sono le conseguenze. Grazie anche all'economista Franco Bruni. Allora, di nuovo in diretta, arriveremo a parlare della borsa, che ha chiuso con un rialzo di 1,5%. Vorrei però, come detto, respirare un secondo, visto che questi dati sul PIL sono più che negativi, e lo vorrei fare con Alessandra Tedesco, che si trova nei nostri studi al Salone del Libro di Torino. Buonasera Alessandra. Buonasera. Dacci almeno tu qualche buona notizia oggi. Va bene il salone, ma soprattutto come va l'editoria? L'editoria è uno dei settori economici che sta reggendo di più rispetto a questa crisi. I dati sono stati diffusi questa mattina dall'AIE, che è l'Associazione Italiana degli Editori, in base ad un'indagine della Nielsen. Nel 2008 c'è stato un lievissimo calo, ma è lo 0,6%, quindi possiamo dire che sostanzialmente il settore regge. Per quanto riguarda invece l'andamento dei primi mesi del 2009, abbiamo sentito Giovanni Peresson dell'Ufficio Studi dell'AIE. Sicuramente il Natale, come ben si sa, è andato in modo notevolmente positivo. Gennaio ha continuato l'andamento positivo, lo stesso febbraio. I primi dati di marzo-aprile segnano un certo affaticamento della domanda, però credo che sia più da imputabile a una caratteristica riconducibile al fatto che il settore dell'editoria libraria è un settore come quello di altri beni culturali è fortemente dominato dall'offerta, e in questo periodo l'offerta di titoli di particolare impatto ce n'è decisamente meno. Come mai il settore editoriale ha retto? Merito degli acquirenti o cosa? Merito forse di un paradosso tutto italiano, cioè il fatto che il mercato del libro nel nostro paese, semplifico ma per senso di chiarezza, il mercato del libro in Italia è fatto sostanzialmente dai forti lettori, e questa caratteristica, che evidentemente è dal punto di vista sociale, dei consumi culturali, un limite, nei momenti di crisi rappresenta invece un punto di forza. Questo direi come primo aspetto. Il secondo è probabilmente molto più sottile, molto più profondo, legato proprio al tipo di domanda, cioè che una parte poi di questi lettori probabilmente ha vissuto quei mesi sostanzialmente di buona parte del 2008, e credo anche questi, come un periodo in cui voleva capire quello che stava succedendo, e quindi probabilmente non soddisfatto esclusivamente della informazione che trova sui giornali piuttosto che in televisione, piuttosto che su internet, sente il bisogno di approfondire, di avere delle chiavi di lettura che arrivano proprio dal mondo dei libri. Facciamo un po' di numeri. Che percentuale degli introiti di una libreria dipende dai cosiddetti lettori forti? Dunque, una percentuale consistente. Diciamo che facendo una media possiamo dire che un 13% degli acquirenti genera qualche cosa tra il 44 e il 45% del loro giro d'affari. E in genere sono persone con, diciamo, classe sociale medio-alta, che risente meno della crisi. Sì, il profilo del pubblico è un profilo sostanzialmente di persona medio-alta, di reddito, alto livello di istruzione, o comunque, voglio dire, di reddito magari un po' più basso, però con titolo di studio ancora più alto, e con questo tipo di caratteristiche. Beh, una buona notizia in questa giornata, Alessandra Tedesco. Possiamo dire, per concludere, che forse anche la crisi, al di là delle fasce di reddito, ha portato le persone a stare più in casa, a uscire di meno, a spendere meno, e quindi a leggere qualche libro in più? Beh, già Peresson diceva che c'è stato il boom, per esempio, della saggistica, perché la gente ha bisogno di capire di più, ma sicuramente per quanto riguarda la narrativa possiamo dire che i libri sono un modo economico per sognare. Sì, soprattutto se sono paperback. E vabbè, qualche vantaggio dalla crisi arriva, si sta più in casa, si legge più il libro, si parla di più con la moglie, la si trascura di meno, che devo dire? Minuti, inizia la seconda e ultima parte di Focus Economia di questa settimana. Non parliamo più del PIL, non perlomeno come abbiamo fatto nella prima parte del programma. Il dato ormai è assolutamente noto. Noi facciamo, visto che ce lo chiedete, perché D'Alema e Bersani hanno detto i peggiori nella media, lì bisogna prendere, capire a che media si riferissero. Come dato sul trimestre e rispetto all'anno prima, peggio di noi fa la Germania, perché la Germania fa trimestre su trimestre meno 3,8 e anno su anno meno 7%, quasi, è la peggiore di tutti. Poi arriviamo noi, che non ci facciamo mai mancare niente, meno 6% anno su anno e meno 2,4% trimestre su trimestre. Vedo che molti ci scrivono: guardate che il traffico merci è tornato sulle autostrade, ce lo scrivono automobilisti o immagino autotrasportatori che frequentano il Brennero, il passante di Mestre, la zona attorno a Torino, parlano di bisacche, di tir stranieri. Speriamo che, come spesso avviene, anche questi siano segnali, visto che i dati sono relativi a gennaio, febbraio e marzo. Adesso però vorrei commentare la chiusura della borsa, che almeno a Milano è stata positiva di 1,5 punti quasi, sull'S&P e sul Mibtel, invariata Francoforte, Parigi più 0,4%, l'America adesso perde lo 0,4%, Londra perde lo 0,3%. I motivi si chiamano soprattutto Intesa San Paolo, più 7,3%. Guido Maurino, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, oggi tra l'altro molte trimestrali, il Monte dei Paschi, ci chiedete spesso il Monte dei Paschi. Oh, quando non diamo i titoli è perché sono invariati o hanno variazioni minime, e anche Monte dei Paschi oggi alla fin fine ha avuto una variazione sostanzialmente nulla in lungo tutta la seduta, poi ha recuperato nel finale e ha chiuso con un 1,7% di rialzo. La trimestrale, l'utile sale del 75% a 300 milioni di euro, quasi raddoppiato l'utile del Monte dei Paschi. E partirei dalle banche, quindi Intesa e Monte dei Paschi. Sì, Monte dei Paschi è vero che ha avuto un, diciamo, un boom degli utili, però quest'utile in realtà è in gran parte legato a una plusvalenza da 200 milioni realizzata per la cessione dell'SGR MPS Asset Management a Clessidra avvenuta nel trimestre, quindi sostanzialmente è anche un dato difficile da confrontare. Gli stessi vertici della banca non hanno nascosto, presentando i risultati agli analisti, che quest'anno comunque sarà un anno non facile, anche perché i crediti in sofferenza in qualche modo sono aumentati rispetto a dicembre, quindi insomma non sarà comunque un anno facile per la banca. Ecco, io non so se si possa fare questo ragionamento, ma visto che 200 milioni dell'utile sono attribuibili a Clessidra, cioè l'operazione, l'anno scorso gli utili furono 170 milioni, è probabile che senza quella plusvalenza eccezionale, straordinaria, l'utile sarebbe risultato in calo e anche non di poco, è probabile. Altro utile è quello del Banco Popolare, torna all'utile e vede un 219 milioni di utile netto nel primo trimestre, certo rispetto al primo trimestre del 2008 siamo a un meno 16%. Sì, in questo caso anche il Banco Popolare ha attraversato vicissitudini difficili in questa fase, in parte legate anche alla questione Italise, ma non solo. I dati comunque sono stati giudicati abbastanza buoni dal consigliere delegato Pierfrancesco Saviotti, che ha preso le redini della banca. Tuttavia anche lui non si è nascosto che il 2009 per la banca non sarà un grande anno, sarà un anno ancora di transizione e consolidamento in attesa poi di una ripresa che avverrà verosimilmente nel 2010. Loro hanno questo obiettivo di riuscire a costruire oggi le basi per agganciare la ripresa quando arriverà. E altri utili tra ieri e oggi? Ieri in serata è arrivato l'utile di Wind, più 50% a 59 milioni di euro per l'operatore telefonico, con ricavi aumentati del 6%. Tra l'altro vanno bene i telefonini, ma anche i ricavi da rete fissa e da internet, più 13%. E poi l'utile di Terna, sempre i primi tre mesi dell'anno, più 3,7% a 94 milioni di euro, i ricavi che aumentano, quindi insomma ci sono gruppi. E infine, così commentiamo, anche A2A, che è il terzo miglior titolo, più 5,1%, e Parmalat, che è il miglior titolo dell'S&P MIB, più 8,2%, anch'esse con le trimestrali. Sì, allora Parmalat ha guadagnato l'8,2%, all'indomani della trimestrale comunicata, anche in questo caso a borsa chiusa. Quello che ha colpito in modo favorevole gli analisti è il fatto che comunque l'utile, che è cresciuto del 95%, ci sarebbe stato in misura inferiore anche senza gli accordi che in questi mesi la banca Parmalat ha stretto con le banche, eccetera. Per cui sostanzialmente anche, diciamo, la parte industriale di Parmalat inizia a produrre utili in qualche modo consistenti, e questo è stato giudicato in modo positivo. Oltre a questo c'è anche le disponibilità finanziarie del gruppo, che sono ancora cresciute e sono ora pari a 1,2 miliardi contro gli 1,1 miliardi di fine dicembre. Dicevamo anche di A2A, A2A ha presentato in realtà i conti qualche giorno fa, ma da allora ha sempre registrato performance positive, ha guadagnato in tre sedute non sempre eccezionali per la borsa, il più del 10%, ci sono poi anche novità attese sul fronte societario per il rinnovo del consiglio di sorveglianza dell'ente, eccetera, una serie di vicende anche interne alla società che stanno catalizzando l'attenzione sul titolo. Sì, ecco, tu giustamente citavi prima Parmalat, che appunto fa un più 8,20. Ogni tanto varrebbe anche la pena ricordare il ruolo dell'amministratore delegato Bondi, perché si parla di Marchionne come uno dei manager migliori in Italia, ed è sicuramente vero, ma anche Bondi non scherza, ha preso la Parmalat in mano nella situazione in cui l'aveva distrutta Callista Tanzi e il suo gruppo di collaboratori da Fausto Tonna in giù, e revocatorie, anzi azioni giudiziarie dopo azioni giudiziarie, la sta rimettendo in sesto. Complimenti a Bondi. Ancora Estima Electronics più 3,4, Saipem più 3,40, l'automatica più 2,7, Tenaris più 2,5 come Prismian, Atlantia più 1,80. Vorrei un ultimo commento su un titolo. Allora, Unicredit, attenzione, perché poi adesso arriveremo anche vicino allo stacco cedole. Unicredit meno 15,6, Mediaset meno 9,7%. Unicredit e Mediaset. Allora, sì, Unicredit in realtà è crollato praticamente, nel finale, per sì. Cui insomma anche noi ci stavamo domandando adesso quali potessero essere un po' le ragioni. Mediaset idem, è crollato anche lui nel finale per tutta la giornata, anzi era stato addirittura un titolo positivo, sì. E mentre era stato più penalizzato Mondadori, che ha ceduto il 2,06%. Non esistono spiegazioni. Non ci sono ragioni particolari che in questa fase possono far giustificare questo crollo. Perlomeno non ragioni che noi conosciamo. Ubibanca meno 3,1, Fiat meno 2,5, Mondadori appunto meno 2, Unipol meno 1,7 come Bulgari e la Popolare di Milano, il Banco Popolare, non l'avevamo citato, meno 1% comunque nel finale, leggermente sotto i 6 euro per azione a 5,93 euro. Grazie, buon fine settimana ai colleghi di Radio Colli Sole 24 Ore, grazie a Guido Maurino. Cielo grigio su, foglie gialle giù, cerco un po' di blu, cerco un po' di blu, dove il blu non c'è, ti sogno California, California, e un giorno ti sogno California, cantavano i Dick Dick, e ti sognavo California, visto quello che sta succedendo in uno stato che, se fosse uno paese-nazione, sarebbe la settima economia al mondo, spesso lo ricordiamo, eppure da solo la California si è beccata il 40% di tutte le case confiscate agli americani, cioè 4 case su 10 di quelle confiscate a chi non paga i mutui sono in California. Il deficit ha toccato la cifra stellare di 42 miliardi di dollari, equivale, pensate, al bilancio di 10 stati americani medi, e la disoccupazione che viaggia oltre l'11%, un livello che in Europa forse la Spagna tocca, contro la media americana dell'8,5-8,9%. Sono gli ultimi giorni del mandato di Schwarzenegger, perché si andrà a elezioni la settimana prossima. Nel frattempo, alle prese con questo deficit, con i conti che non tornano, con le casse vuote, dalla California arrivano idee interessanti, ma diciamo idee che noi come italiani abbiamo avuto in precedenza. Soprattutto c'è un caso, non so quanto i californiani lo conoscano, che però ce lo ricorda molto molto da vicino. Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato, quando faccio cioccolata fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che butto dentro la fontana è il tuo paese. Si capisce? Questa è la famosa fontana di Treni. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette? Cavaliere ufficiale Antonio Treni. Complimenti! Decio cavallo. Come? Decio cavallo. Avevo capito che c'è cavallo. Io un po' paesà, è un buon business. Ottimo, ottimo. I soldi nella fontana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua. Ci vogliono molto staff, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fontana. Basta uno io solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fontana, piglio i soldi, apro la fontana e tu. Senti, io sono italiano oriundo. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business. E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì. Allora la compro io. Quanto costa la fontana? Con 10 milioni della casa. Ok, domani vieni al consolato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? Quale caparra? Bravo Fitz, se nel frattempo viene qualcuno che se lo vuol comprare, che fai? Io aspetto a te. Giusto, e quanto? Mezzo milione. Ah no, sono troppo mezzo milione, ti do 100.000 lire. Ma che sei pazzo? Oh, ma che in America così fanno gli affari? Eh sì, perché se Totò cercava di vendere la fontana di Trevi a un oriundo, a un italoamericano, potrebbe capitare a un italiano di andare a Los Angeles e sentirsi offrire niente poco di meno che il Colosseum, Los Angeles Memorial Coliseum, come lo chiamano gli americani, lo stadio che ha ospitato per due volte le Olimpiadi, unico stadio al mondo, e poi anche il carcere di San Quintino, no? Di San Francisco. praticamente il carcere dove c'è il maggior numero di condannati alla pena, tra l'altro, di morte, oltre 600. Perché? Perché l'idea è venuta al governatore attuale della California, Schwarzenegger, che spera di incassare tra i 600 milioni e il miliardo vendendo anche grandi infrastrutture come la fiera della contea di Orange, sud di Los Angeles, o l'ippodromo di Del Mar vicino a San Diego. Perché? Perché, dice Schwarzenegger, abbiamo bisogno in tutti i modi di nuove entrate. Penso che sia il momento di parlarne. Io sono favorevole a un dibattito aperto su tutte le idee che hanno come obiettivo entrate extra. Credo che dobbiamo guardare molto attentamente a ciò che viene fatto in altri paesi, dove è stata legalizzata la marijuana e altre droghe. Occorre studiare quali effetti si sono avuti in quei paesi e se si è rivelata una buona decisione o meno. Sono aspetti che vanno considerati. Se sono state esperienze positive, allora potremo pensarci, altrimenti lasceremo perdere. E dato che la questione riguarda possibili entrate extra, dobbiamo essere molto attenti a non commettere errori su nessun fronte. E poi a questo si aggiunge anche l'idea di legalizzare la marijuana, di cui la California dovrebbe essere il primo produttrice americano. L'idea in questo caso non è di Schwarzenegger, ma di un deputato democratico italo-americano, Tom Ammiano. Daniela Roveda, corrispondente del Sole 24 Ore dalla California, da Los Angeles, buonasera o buongiorno per te. Buonasera. Allora, ma sono messe così male le casse della California che si ricorre alla vendita dei monumenti, degli stadi, delle carceri, o c'è anche un po' di demagogia elettorale, visto che si va a votare fra poco? Beh, c'è un po' tutte e due. Le casse della California sono vuote e quel deficit di 42 miliardi di dollari che era stato colmato in febbraio con un misto di nuove tasse e tagli alle spese è in realtà lievitato di altri 15 miliardi e mezzo di dollari tra febbraio e maggio. Però. E quindi le finanze sono veramente in crisi, la California ormai emette delle obbligazioni che sono le più rischiose di tutti gli Stati Uniti, peggio ancora della Louisiana, e quindi Schwarzenegger ha pensato di provocare forse l'elettorato californiano e scuoterlo un po' dal torpore in cui è rimasto avvolto per così tanti anni. Provocare, ma anche suscitare il consenso per un eventuale referendum fiscale, cioè di inasprimento fiscale. Sappiamo che in California è difficile far passare una legge di aumento delle tasse a livello governativo. Di solito si è sempre preferito il referendum. Sì, è sempre preferito il referendum perché in California c'è bisogno di una maggioranza di 2/3 per passare la finanziaria e l'impresa si è rivelata quasi sempre insormontabile, quindi spesso privati cittadini oppure lo stesso governatore mette ai voti delle riforme fiscali che vengono votate in referendum. Il prossimo è appunto la settimana prossima, il 19 maggio, e una serie di referendum che dovrebbero imporre tra l'altro un tetto alle spese pubbliche e la creazione di un fondo cuscinetto per il futuro per affrontare periodi recessivi come quello di quest'anno. Purtroppo l'elettorato sembra poco propenso ad approvare i referendum che vuole Schwarzenegger, almeno secondo i sondaggi, e quindi molti credono che questa boutade di Schwarzenegger di voler vendere le prigioni e gli stadi sia un modo per spaventare l'elettorato e convincerlo a votare per i referendum. Che sarebbe, diciamo, una mossa già vista in politica. Grazie a Daniela Roveda in collegamento con noi da Los Angeles. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia e per questa settimana. Ricordo, l'aggiornamento da Wall Street vede ancora la borsa calare di uno 0,4% in America, l'euro essere stabilmente a 1,35,5. Alcuni di voi si sono appena messi in collegamento, non possiamo rifare la puntata, però meno 2,5 è la media europea quanto a calo del PIL rispetto agli ultimi tre mesi del 2008, mentre in Germania ha fatto meno 3,8, l'Italia è andata anch'essa sopra la media con un meno 2,6%, la Spagna ieri aveva dato un dato pesante, l'Olanda ha visto il calo più alto dalla seconda guerra mondiale. Il paese migliore, come abbiamo ampiamente spiegato nella prima parte del programma, resta la Francia, perché lì l'economia è meno legata alle esportazioni e i consumi francesi, grazie anche alle politiche sociali di welfare, stanno ottenendo meglio di altri consumi europei. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Valeria Berardi l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. A voi tutti comunque un buon fine settimana.